Storie italiane. I quattro fratelli. Molto tempo fa, in un piccolo villaggio, viveva un pescatore con i suoi quattro figli. I suoi figli si chiamavano Rob, Cole, Alex e Harry. Il pescatore era molto povero. La vendita di pesce era la sua unica fonte di reddito e riusciva a guadagnare solo quello che bastava per la sua famiglia. Non aveva altro da dare ai suoi figli. Un giorno chiamò i suoi figli e disse loro: «Figli miei, ascoltate, non ho niente da darvi. Ora siete abbastanza grandi, quindi dovete cercare la vostra strada, trovare una vocazione e tentare la fortuna». «Ma padre, non conosciamo il commercio o l'arte. Cosa faremo lontani da casa?» «Questo è esattamente quello che dovete scoprire. Dovete andarvene per capire che tipo di lavoro siete capaci di fare». «Ma padre, non ci siamo mai avventurati da soli». «Bambino mio, niente andrà storto. Non voglio che facciate la vita del pescatore. Riusciamo a malapena a sopravvivere con questo lavoro. Andate e trovatevi un lavoro lucrativo». «Va bene, padre, se questo è quello che vuoi, noi sicuramente andremo». «Sì, padre, andremo». I quattro fratelli salutarono il padre e se ne andarono. Ad un certo punto, videro quattro strade che andavano tutte in direzioni diverse. Rob disse ai suoi fratelli: «Penso che ognuno di noi debba scegliere una di queste strade. Ci incontreremo di nuovo fra 4 anni». D'accordo, fratello. I quattro fratelli presero 4 strade diverse. Rob incontrò un uomo lungo la strada. «Amico, questo è un vicolo cieco. Dove stai andando?» «Voglio imparare un mestiere, qualsiasi tipo di commercio che mi permetterà di guadagnarmi da vivere». «Allora vieni con me. Farò di te il ladro più furbo del mondo». «No, voglio guadagnare con onestà. Non rubando. Voglio vivere liberamente e non essere buttato in prigione». «Ascolta, amico, nessuno ha parlato di andare in prigione. Basta imparare l'abilità del furto, ma per fare del bene». Rob fu d'accordo con lui. Pensò che non ci sarebbe stato niente di male nell'imparare quel mestiere. Quindi andò con l'uomo, lo rese così abile nell'abilità del furto che, indipendentemente da ciò che Rob voleva, poteva facilmente rubarlo senza che nessuno se ne accorgesse. Mentre camminava, Cole raggiunse un punto in cui scorreva un fiume e c'era solo una casa nella zona e nient'altro per miglia e miglia. Vide un uomo in piedi vicino al fiume. Stava tenendo in mano un attrezzo fatto di vetro. Cole non riuscì a capire di cosa si trattasse. Andò da lui. «Ehi, amico, cosa stai facendo?» «Con questo attrezzo puoi vedere facilmente cose lontane. Questo è chiamato binocolo». «Sembra essere molto interessante. Mi insegneresti a usarlo?» «Se vuoi imparare, certamente ti insegnerò». Cole iniziò a vivere con quell'uomo. L'uomo gli insegnò ad usare il binocolo. Nel giro di pochi mesi, Cole diventò un esperto. «Hai imparato tutto, quindi se vuoi andartene, sei libero di andare». «Sì, è passato un anno intero. Ora devo andare». «Va bene, porta questo binocolo con te. Ti permetterà di vedere qualsiasi cosa sulla terra o nel cielo». Nel frattempo, il terzo fratello, Alex, aveva incontrato un cacciatore. Rimase con lui nella sua casa e imparò l'abilità della caccia. «Alex, ti sei esercitato molte volte qui sul campo. Oggi devi esercitarti nella foresta. Vediamo se riesci a mirare oggetti in movimento». «D'accordo». Insieme raggiunsero la foresta, dove il cacciatore mostrò ad Alex come mirare a un cervo in corsa. La freccia colpì il cervo e lo uccise. Alex, andiamo. Ora prendi la mira. Alex prese una freccia e mirò un uccello in volo, ma la freccia lo mancò. Alex, hai ancora bisogno di pratica. D'ora in poi, ogni giorno, verremo nella giungla per esercitarci. D'accordo. Ogni giorno il cacciatore portava Alex nella foresta per esercitarsi. Alla fine, Alex riuscì a colpire tutti gli obiettivi senza mancarne mai uno. Era diventato un esperto assoluto nell'arte della caccia. Bravo, Alex. Ora la tua mira è perfetta e hai imparato tutto della caccia. Grazie, fratello. Mi hai aiutato così tanto. È solo grazie a te se sono riuscito ad imparare tutto questo. Ora vorrei tornare a casa per aiutare mio padre. Certo, puoi andartene. Porta quest'arco e queste frecce con te. Ti saranno utili. Il fratello più giovane, Harry, raggiunse un villaggio dove incontrò un sarto. Fratello, chi sei e cosa stai facendo qui? Mi chiamo Harry e sono venuto ad imparare un qualsiasi mestiere. Va bene. Vorresti davvero diventare un sarto? Posso insegnarti. Certo, perché no? Mi piacerebbe imparare. Harry iniziò a stare a casa del sarto. Con tutto il cuore, il sarto gli insegnò l'arte del cucire vestiti. Spiegò a Harry tutti i trucchi del mestiere. Come infilare l'ago. Come tenere un pezzo di stoffa prima di cucirlo. Gli insegnò proprio tutto. Col passare del tempo, Harry imparò molto bene a cucire. Il sarto era molto felice di Harry per il suo duro lavoro e la sua sincerità. Quando Harry stava per partire, il sarto gli diede un ago e un filo e disse: «Sono molto contento del tuo lavoro. Prendi questo ago e questo filo. Mantienili morbidi come la morbida lana e forte come l'acciaio. In questo modo potrai cucire qualsiasi cosa e nessuno sarà mai in grado di individuare i punti della tua cucitura». I quattro fratelli raggiunsero lo stesso punto in cui avevano promesso di incontrarsi dopo 4 anni. Da lì tornarono a casa insieme. Quando raggiunsero la casa, trovarono il padre e ognuno gli disse cosa aveva imparato. Un giorno, mentre erano tutti seduti sotto un albero fuori dalla loro casa, il padre disse loro: «Oggi voglio vedere quanto siete abili nei mestieri che avete imparato. C'è un nido in cima all'albero. Ditemi, quante uova ci sono dentro?» 5. «Bene, Rob. Ora tu prendi le uova che sono sotto l'uccello e seduto sopra di esse per covarle. Vada bene, l'uccello non deve accorgersene». Rob si arrampicò sull'albero e, senza farsi vedere dall'uccello, prese le uova. Fu talmente bravo che l'uccello non notò nemmeno la mancanza delle uova. Wow, eccezionale! Il pescatore mise le 4 uova ai 4 angoli del tavolo e disse a suo figlio Alex: «Taglia tutte e 4 le uova in 2, con una sola freccia, ma bada bene che al pulcino non succeda niente». Alex prese una freccia e con un solo tiro tagliò le uova in 2. Il pescatore fu molto felice di vederlo e poi disse a suo figlio Harry: «Ora ricuci queste uova tutte insieme, in modo che l'uccello possa dare alla luce i suoi piccoli». Harry prese l'ago e ricucì le uova. E poi Rob rimise le uova nel nido. L'uccello non si era accorto di niente. «Molto bene, figli miei. Avete davvero imparato qualcosa in questi 4 anni. Non ho alcun regalo da darvi, ma sono certo che la vita vi ricompenserà per il vostro duro lavoro». Alcuni giorni dopo si diffuse in tutto il regno la notizia che un drago aveva rapito la principessa. Il re dichiarò che chiunque avesse trovato la principessa l'avrebbe sposata. «Figli miei, avete l'opportunità di mostrare i vostri talenti. Andate a salvare la principessa dal drago. Tutti e quattro i fratelli si prepararono e partirono per andare a salvare la principessa. Cole guardò dal suo binocolo e disse: «Posso vedere dov'è la principessa? Il drago l'ha nascosta su un'isola in mezzo al mare ed è seduto lì a sorvegliarla». Andarono dal re e chiesero una barca per poter raggiungere l'isola. Il re diede loro una nave e i quattro raggiunsero l'isola. Cole guardò con il suo binocolo e disse: «Il drago sta dormendo lì vicino e tiene la testa sul grembo della principessa. In questo caso non posso prendere la mira per timore che la freccia ferisca la principessa. Aspetta, ruberò la principessa e la porterò qui. Tenete pronta la barca». Rob rapì la principessa dal drago, ma quando arrivarono alla nave, il drago si svegliò e, volando sopra di loro, li seguì. Stava per attaccare quando Alex lo uccise con le sue frecce. Ma quando il drago cadde nell'acqua, con l'impatto della sua caduta, l'acqua si agitò molto e la barca si ruppe. Rimasero tutti a galla tenendosi ai vari pezzetti. Così Harry prese il suo ago e un lungo pezzo di filo e cominciò a cucire assieme le assi di legno. Ne cucì così tante che tutti poterono sedersi su di esse. In questo modo riuscirono a portare la principessa sana e salva. Quando arrivarono dal re, lui disse: «Decidete tra voi quattro chi dovrà sposare la principessa». Al suono di queste parole, i quattro fratelli iniziarono a combattere tra di loro. «Se non avessi trovato io la principessa, cosa avreste potuto fare voi tre? Quindi sposerò io la principessa». «Se non avessi salvato la principessa dal drago, cosa avreste fatto voi tre? Sposerò io la principessa». «Se non avessi ucciso il drago, voi tre non sareste mai riusciti a riportare la principessa a casa. Come avreste fatto, dunque, a sposarla? Sarò io a sposarla». «Se non avessi ricucito la barca, sareste annegati tutti. Ecco perché sposerò io la principessa». Vedendo i quattro fratelli litigare, il re decise che nessuno di loro avrebbe sposato la principessa, perché nessuno sarebbe stato felice. Il re diede metà del suo regno ai quattro fratelli come ricompensa. I fratelli ottennero tutto ciò che volevano. In questo modo, il pescatore non fu più povero e vissero tutti felici e contenti. Fine.